get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, quella che sta per iniziare è la nostra 276esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. Oggi qui in radio siamo Caterina, cioè quella che vi sta parlando, poi con me ci sono Lucilla e Rosina. Ciao. Vicino al microfono Rosina, se no non ti sento. Non ti sento uguale, provo ad accendere il microfono. No, dovete sapere. Buonasera a tutti. Eccola, è con noi. E a me mi senti? E pure troppo, ma hai sfondato una riga. Ok. Oggi la scaletta della trasmissione prevede un incontro telefonico con una attrice e sceneggiatrice che abbiamo avuto modo di vedere in scena qui a Roma il 6 gennaio. Lo spettacolo che ha presentato si intitola Der Puff, frammenti cantati di corpi internati, e racconta delle lesbiche nel campo di concentramento di Ravensbrück. Argomento da noi già trattato in una precedente trasmissione, ma che oggi affrontiamo da un'altra angolatura. E poi, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, riportare alla luce storie lesbiche non è mai una perdita di tempo. Bene, a questo punto non ci resta che ricordarvi della possibilità che avete di intervenire alla trasmissione telefonando al numero della radio, che è lo 06 49 17 50, oppure inviandoci un sms al numero del nostro cellulare, che è il 339 85 36 270, che ricordiamo resterà attivo fino alla fine di questa puntata. Bene, direi a questo punto di iniziare subito ascoltando una canzone. Quella che ho scelto si intitola Brenda ed è tratta da un film un po' vecchiotto, insomma di qualche anno fa. Un po' quasi. Un po' questa. No, noi non siamo anti-age, siamo anzi. Siamo age e basta. Age e basta. Il film in questione era Baghdad Café e il brano si intitola Brenda. Chiedo scusa per la qualità del sonoro, ma purtroppo questa era l'unica traccia che avevamo, ma era talmente carina che la volevamo mandare comunque. Give me a home where the coyotes howl, where the weather is fair. Vorrei aggiungere che anche Lucilla è mono, ma nessuno mette in discussione le sue qualità. Ecco. È da prima che vuole di sta battuta, gliel'ho lasciata dire, perché con le bambine bisogna essere, insomma, pazienti. Ma veniamo a noi e alla trasmissione. Allora, intanto ricordiamo, per quelle che non ricordano, che il 27 di gennaio si celebrerà, come ogni anno, la Giornata Mondiale della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Troppo spesso si dimentica però che, oltre alle vittime ebree, centinaia di migliaia di persone, appartenenti ad esempio alle etnie Rom, Sinti, Testimoni di Geova, soggetti considerati asociali, malati mentali, omosessuali e lesbiche, furono internate nei campi di concentramento, sfruttati, seviziati, utilizzati in crudeli esperimenti e infine assassinati. Allora, diciamo questa cosa perché è attinente all'intervista che poi andremo a fare, come avete sentito prima nell'introduzione di Caterina. La Giornata della Memoria si celebra proprio per non dimenticare. E mentre, come è giusto che sia, la tragedia ebraica è universalmente riconosciuta e celebrata, anche se qualcuno parla, no, ci sono i negazionisti che dicono che non è vero, però sappiamo per certo invece che è vero, e gli ebrei stessi ricordano il loro olocausto facendo tutta una serie di lavori sulla memoria, il più delle volte si ha invece la percezione che esista nell'immaginario collettivo una sorta di olocausto minore, non solo in termini numerici, ma anche qualitativi. E in questo caso parliamo di quello che è accaduto nei campi di concentramento per gli omosessuali e le lesbiche, le travestite e i travestiti, che sono stati assolutamente dimenticati, anzi, immediatamente dopo la guerra, di loro si è perduto le tracce, e siccome le leggi europee erano ancora contro, cioè avevano ancora delle norme contro l'omosessualità, ci si doveva guardar bene dal potersi ritenere colpiti, no, dalla guerra come tanti altri soggetti, e magari rivendicare qualcosa per sé. Sì, certamente. Ricordiamo infatti che ad esempio le persone lesbiche, omosessuali, non hanno potuto ricevere nessun tipo di risarcimento, di indennizzo economico dopo essere tornate dai campi. Abbiamo ricordato spesso come la cancellazione di certe realtà passi attraverso diversi canali, e di come sia difficile fare sì che voci differenti abbiano diritto di testimoniare il proprio esistere. Il silenzio e l'indistinto sono le chiavi principali attraverso le quali passa e si consolida la cancellazione. E qui sfondiamo la solita porta aperta, almeno per quello che ci riguarda. Le donne storicamente sono i soggetti che più hanno risentito di questo annientamento. Il silenzio sulle donne è, come diciamo spesso, assordante. Non vogliamo parlare di stupri, non vogliamo parlare di femminicidi, eccetera, eccetera. Non li lasciamo da parte, li teniamo sempre presenti, però se diciamo queste cose capiamo a che cosa ci riferiamo. Allora, un esempio rispetto a quello che è avvenuto nei campi di concentramento e dopo, alla fine della guerra e alla chiusura dei campi di concentramento, lo dimostra per esempio l'esiguo numero di testimonianze femminili rispetto a quelle degli uomini. Che ci sono state le sopravvissute, come ci sono stati i sopravvissuti, ma le sopravvissute non hanno costituito categoria, non è stata riconosciuta in alcun modo. E E invece le donne sono state molto, molto colpite, molto più degli uomini. Tant'è vero che mentre tutta una serie di campi di concentramento erano campi di concentramento misti, quello di Ravensbrück era un campo di concentramento femminile, e noi su questo abbiamo già fatto una trasmissione, ma ci teniamo a ricordarlo, era un campo di concentramento tutto femminile dove si sperimentava sui corpi delle donne tutta una serie di cose. Quindi le aberrazioni vengono narrate, però vengono, come dire, in qualche misura edulcorate per quello che riguarda le donne. Le donne, ritornando ad allora, le donne tornate dai campi spesso hanno avuto timore di testimoniare la loro esperienza. Spesso non sono state credute e ancor più spesso sono state guardate con sospetto. Perché? Perché gli si chiedeva: come avete fatto a tornare? Che cosa avete fatto nei campi di concentramento? Sottintendendo che se erano sopravvissute era perché avevano fatto esercizio di prostituzione, cioè si erano prostituite all'interno dei campi oppure erano delle traditrici, delle delatrici e via discorrendo. Quindi le donne si sono trovate a dover giustificare il perché della loro sopravvivenza, cosa che non è accaduta agli uomini, anche con i loro stessi compagni di sventura. E quando loro raccontavano, gli uomini non le credevano, non credevano alle donne e a quello che raccontavano su ciò che gli era accaduto. Come se la loro salvezza in qualche modo fosse dovuta a qualche comportamento non ortodosso. Come abbiamo detto, la prostituzione, la delazione, il tradimento, il collaborazionismo e via discorrendo. E quindi tutti comportamenti non accettabili a livello sociale. E ce lo fanno capire molto chiaramente le parole di donne come ad esempio Liliana Segre o Giuliana Tedeschi, che invece hanno trovato la forza e la modalità, perché sono delle intellettuali, di raccontare con lo sguardo di genere la tragedia che è occorsa nelle loro vite, quindi la tragedia che loro hanno vissuto e la cui testimonianza è stata raccolta da Daniela Padoan nel libro Come una rana d'inverno, che noi abbiamo letto con i peli ritti, i capelli orripilati sulla testa, ma che consigliamo come lettura, perché sono testimonianze molto forti e molto importanti. La testimonianza delle donne, diretta o semplicemente riportata da altre donne, assume per noi un significato particolare. Il raccontarsi delle donne, con lo sguardo delle donne e con la sapienza del genere, annulla le insidie del racconto neutro. La donna che parla del proprio vissuto parla attraverso l'esperienza di un corpo che ha affrontato le difficoltà e il dolore in modo diverso da quello maschile e con una sensibilità differente. Per esempio, rispetto alle testimonianze di cui vi abbiamo parlato, della Segre e della Tedeschi, loro raccontano nel libro che uno degli aspetti più terribili nei loro ricordi è l'arrivo al campo, e loro poi come ebree, quando vengono fatte spogliare nude e devono passare sotto lo sguardo dei soldati che ridevano di loro. E parliamo di quegli anni, parliamo della fine degli anni 30, dove la nudità per una donna era veramente una cosa molto difficile da sopportare, no? Nel senso, c'era un senso del pudore e una moralità e un costume che era diverso da quello di ora. Perché siamo diverse e diversi, dicevamo, perché non esistono solo i superstiti e i testimoni, ma esistono le superstiti e le testimoni, in numero minore forse, oggi sempre più a causa degli anni che sono passati e quindi i sopravvissuti purtroppo hanno raggiunto i limiti di età e il loro passaggio su questa terra appunto finisce. E un po' perché, come detto, le donne hanno avuto più difficoltà a raccontare, ma anche perché sono morte in numero maggiore. Le donne, quindi l'olocausto femminile, c'è stato e non è, come al solito, riconosciuto. Tra i 1000 ebrei romani che vennero deportati nel 1943, sopravvissero soltanto 16. Di questi 16, solo una donna è sopravvissuta, quindi 15 maschi sono sopravvissuti all'olocausto e una donna sola è ritornata dai campi di concentramento. E questa donna si chiama Settimia Spizzichino. Oggi Roma la ricorda con un ponte che a lei è dedicato. E anche noi oggi, seppure un po' in anticipo, vogliamo ricordare il 27 gennaio, giorno in cui l'Armata Rossa liberò per esempio il campo di Auschwitz. Ma immediatamente dopo l'Armata Rossa ha liberato anche Ravensbrück, il campo di concentramento femminile dove all'interno le donne, che erano tante e che sono passate in tante, morte in tante, erano le politiche, erano le asociali, e tra le asociali c'erano le lesbiche. Allora, lo vogliamo fare e vogliamo ricordare questa cosa in un modo insolito per noi, intervistando un'attrice che abbiamo avuto il piacere di vedere a teatro in una pièce bella ed intensa intitolata Der Puff, frammenti cantati di corpi internati. Ma prima della canzone, prima di qualsiasi altra cosa, Caterina vi leggerà. Che sprecati di sprovvista, che devo leggere? L'intermezzo, sì, vabbè, l'avrei fatto dopo. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz di Roma, di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne scrivendo a CLR presso Casa Internazionale della Donna, Centro Femminista Separatista, via San Francesco di Sales 1B, Roma. Vi ricordiamo inoltre che avete la possibilità di riascoltare le nostre trasmissioni andando sul blog mfla.noblog.org, dovete cliccare su È una calamità dalla barra di destra, dove sono disponibili gran parte delle nostre trasmissioni, oppure anche andando a visitare il nostro nuovo sito www.clrbp.it, aggiornato di recente. E ripetiamo ancora il telefonino sul quale potete mandare gli sms, a questo numero 339 85 36 270. Ora la musica. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Thank you. are marching in the mud and cold. And when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Come avete, quella che avete ascoltato è la voce di Marlene Dietrich e scusa se ti interrompo, la canzone era Rosina. Sì. È caduta la linea come se nelle migliori famiglie. Ecco, come nelle migliori famiglie. Speriamo che Francesca stia ancora ascoltando e che non abbia spento la radio, se no gli mandiamo un messaggino allora per richiamarla. Dovresti gentilmente, Francesca, riattaccare il telefono perché è caduta la linea e quindi noi proveremo a richiamarti, va bene? Succede nelle migliori famiglie. È il bello della diretta. Allora, mentre cerchiamo di rimetterci in contatto con Francesca Falchi, vi dicevo, la canzone che avete ascoltato era Lili Marlene, la più famosa canzone della Seconda Guerra Mondiale, cantata da Marlene Dietrich. Questa canzone, che era nata come una canzone di regime, in realtà divenne poi, diciamo, il simbolo più forte di avversione a tutte le guerre, tanto che addirittura Goebbels, che l'aveva in odio, la vietò fino a che comunque la forza di questa canzone non travolse tutto, e la canzone appunto venne cantata indistintamente dai tedeschi, dagli inglesi, dagli americani, tutti quanti la cantarono. Allora, io devo venire in soccorso di Rosina, che non sapeva più che cosa inventarsi di una canzone. Adesso, se tutto è andato bene, dovrebbe essere in linea Francesca. Francesca, ci sei? Sì, ci sono. Ciao, buonasera a tutte. Allora, ok, aspetta che mi indossano le cuffie. Francesca, ci sei? Ci sono. Perfetto, vai. Oh, finalmente ci siamo. Francesca, quando ci sei tu ci sono soltanto grandi sorprese. Naturalmente, qua c'è un temporale a Cagliari. Ecco, qui da noi c'è stato nel pomeriggio, Lucilla ha preso tutta l'acqua, così impara. Ecco, qui è arrivata a nuoto in radio. Esattamente. Sì, più o meno, nuotando. Con lo scafandro. È venuta nuotando. Francesca, innanzitutto grazie per essere qui con noi. Prima di intervistarti, di chiederti alcune cose sul tuo spettacolo, volevamo dire veramente due parole sulla tua biografia, due parole perché purtroppo la tua biografia ha dimensioni piramidali, per cui... Sì, l'ho presa direttamente dalla biblioteca di Alessandria, un manoscritto superstite, ecco. Esattamente. Allora, correggimi se sbaglio, proprio veramente due cose su di te. Tu sei attrice, drammaturga, regista, sei nata a Cagliari. Ti sei diplomata alla Scuola di Teatro di Bologna, hai debuttato a teatro con il testo teatrale Frida, che nacque due volte, e hai fatto una quantità di cose, Il lupo e il cielo spinato, La favola nera di Ester Hacca, di cui sei autrice ed interprete, sulla figura di Etty Hillesum, e qui andiamo sempre sull'argomento che intendiamo. Cose leggere, ecco. Esattamente, esattamente. Nel 2011 hai presentato alla rassegna Garofano Verde Der Puff, il primo studio. Hai anche lavorato su un testo, su un progetto che si chiama The Generation. Esatto. Sei stata autrice di un monologo di Giovanna D'Arco, giusto? Sì. Hai fatto un lavoro interessante, di cui magari poi dopo parleremo, che si chiama Funny Rabbits, That's All Folks, sugli esperimenti sulle studentesse polacche nel campo di concentramento di Ravensbrück, le tristemente famose conigliette. Stai lavorando al Canossarium su Matilde di Canossa. Farai una cosa su Alda Merini, che si chiama Alda Mater, E insomma, che ti devo dire, tutti questi titoli che abbiamo detto, e che mi sembra siamo tutti quanti corretti, indicano che la tua produzione si orienta su un certo tipo di teatro in cui lo sguardo di genere e l'attenzione per le tematiche sociali, soprattutto relative alle donne, sono fondamentali, mi sbaglio? Esatto, tutte cose al femminile. Perfetto. Perfetto. Con donne, per donne e anche occasionalmente uomini. Vabbè, ogni tanto ci devono pure entrare. Beh, qualcosa la devono imparare pure loro, cattiva, insomma. Ecco. Così vengono, imparano, no? Certo. Certamente. Senti, Francesca, allora abbiamo detto che la cosa che ci piaceva più raccontare stasera è appunto la tua esperienza di Der Puff. Noi abbiamo visto questo spettacolo a Roma e tu lo hai portato in scena dal 4 al 6 di gennaio al Teatro 2 al Vicolo dei Due Macelli. E noi siamo venuti a vederlo questo spettacolo perché appunto prometteva che in qualche modo le lesbiche che appunto sono così spesso dimenticate nella storia, in qualche modo sarebbero ritornate a galla in questo tuo spettacolo. Come ti è nata l'idea di fare Der Puff? Allora, come tu hai giustamente detto, dal lungo elenco di titoli, negli ultimi 5 anni il mio lavoro si è concentrato sulla Shoah. Sì. Quindi diciamo l'argomento deportazione, campi di concentramento, nazismo, appunto è quello che ha riempito questi 5 anni di studi e di lavoro. Ho iniziato con E.T., Illesum, appunto con Il lupo e il cielo sfilato, sì. E poi come voi sapete, per chi ama leggere e comunque studiare, poi gli spunti diciamo vengono a galla da soli. Io dico che ci sono delle voci, che poi detto così può sembrare un po' da internamento, che io sento e che mi raccontano delle storie, no? Che mi parlano. E tra le tante storie venute a galla c'è stata appunto questa delle lesbiche. Prima, devo dire la verità, è partito tutto paradossalmente da uno studio che stavo facendo anche su lesbiche e fascismo. Sì. Che è appunto The Generation, del quale tu hai parlato prima. Sì. Però ho preferito focalizzare proprio l'attenzione, proprio per il percorso che stavo facendo, sull'argomento delle lesbiche nei campi di concentramento, perché, come tu giustamente hai detto, è un argomento assolutamente intoccato e sconosciuto. E quindi in questa volontà di dar voce a chi voce non ha avuto, mi sono imbarcata in questo studio che è durato un anno e mezzo dove naturalmente il materiale è esiguo, perché dai documenti ufficiali non risulta praticamente niente, perché lesbiche venivano accorpate con le asociali, con i famosi triangoli neri, sì. Dove c'erano le prostitute, le criminali comuni, le zingare, e quindi non è stato facile poi individuare queste storie, che sono finite nel dimenticatoio, tranne per alcune di loro, delle quali sono appunto rimaste delle poche righe che appunto testimoniano qual era poi il trattamento che veniva riservato ad alcune di loro. Poi attraverso le testimonianze di altre deportate che hanno appunto raccontato le loro storie, come Fania Fenelon, che ne ha parlato nel libro Ad Auschwitz c'era un'orchestra, o la stessa Wanda Poltavskaja nel suo libro di memorie, sono riuscita a ricostruire certamente non in maniera completa, ma credo e neanche esaustiva, però credo abbastanza vicina a quella che era la realtà, la loro storia. Sì, tra l'altro su Fania è stato fatto un bellissimo film con protagonista Vanessa Redgrave, si chiamava, sì. Mi sembra, se non sbaglio, Fania 1943, qualcosa del genere. Sì, un bellissimo film dove lei si era completamente rasata, sì, erano sì, tutte rasate, le attrici So che anche tu però hai fatto questo passaggio. Sì, io nello spettacolo su E.T. Illesum mi sono rasata, l'ho fatto per 2 volte, fino a che poi un po' il freddo, un po' per rasarmi una volta all'anno sembrava quasi un momento di espiazione, e ho detto basta. Però se si dovesse ripresentare l'occasione lo rifarei tranquillamente, perché la scena diciamo finale dove io mi toglievo questa parrucca era forte per chi la vedeva, ma anche estremamente forte per me. Certo. Senti, Francesca, noi vorremmo dire due parole proprio su come noi abbiamo vissuto la visione del pezzo teatrale, e poi vorremmo mandare un pezzo musicale di quelli che tu ci hai mandato, che sono quelli del periodo. Dopodiché esatto. Partiamo con altre domande. Quello che noi volevamo dire è che la cosa particolare, noi siamo arrivate a vedere lo spettacolo non sapendo che cosa ci si poteva aspettare, no? E tu hai scelto la forma, diciamo, di dar corpo allo spettacolo, la forma del cabaret, che ci aveva incuriosito e che poteva anche sembrare azzardata data l'argomento. Ecco, quello che noi abbiamo vissuto in quell'ora e dieci in cui siamo state a teatro è stato un vero divertimento, un ridere anche, alle volte un sorridere amaramente, ma e provare anche una profonda tristezza nei pezzi, nei monologhi che erano drammatici. Molto drammatici, ma sostanzialmente ci siamo portati a casa una bella energia. Sì, una bella energia e una gran voglia anche di ricombattere, di combattere e comunque di fare, e senza depressione. Quindi devo dire che per noi è stato molto bello, ed è un grazie quello che ti vogliamo restituire per questa energia che sei riuscita a trasmettere. Vorremmo mandare un pezzo musicale e poi procediamo ancora con l'intervista a Francesca. Allora, se leggo bene il tedesco, cosa che mi dovrebbe essere congeniale visto che c'è un cognome tedesco, ma insomma va bene. Vediamo, Wendy e Best Freuden. Allora, sì, Wendy Best Freuden. Quando la migliore amica, è la traduzione italiana. Ecco, meglio andare con la quando traduzione. Quando la migliore amica. Ok, allora vado con il brano. Che figura! Wendy Best Freuden. Die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste. So einfällt. Ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte. Wir vertragen uns beide so gut. Ja, wir vertragen uns so furchtbar gut. Nein, wie gut wir beide uns zusammen vertragen. Es ist kaum noch auszuhalten, wie gut wir uns beide vertragen. Nur mit einem vertrage ich mich noch so gut. Mit meinem süßen kleinen Mann. Ja, mit deinem süßen kleinen Mann. Ja, ein Mann. Aber auch wirklich ganz süß. So? Ja. Warum? Ich finde. Wieso? Wieso nicht? Wieso findest du? Ich finde ihn eben entzückend. Das passt mir aber nicht. Nanu? Nanu? Du hast mich mit ihr betrogen. Weil du mich mit ihr betrogen hast. Und du hast mich mit ihm betrogen. Weil du mich mit ihm betrügst. Ja, was sind denn das für verwickelte Familienverhältnisse? Wollen wir uns nicht lieber wieder vertragen? Ja. Wir wollen uns lieber wieder vertragen. Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin. Oh, meine beste Freundin. Oh, meine schöne Freundin. Oh, meine treue Freundin. Oh, meine süße Freundin. Geht die beste Freundin mit der besten Freundin. Francesca, meno male che non hanno inventato la radio visiva, perché qui stavamo facendo dei gran balli come delle debosciate. Allora, questa era la bella canzone che tra l'altro tu hai anche tradotto per il tuo spettacolo, quindi la cantate anche in sì, italiano. Che canto con la mia straordinaria compagna di scena, Marta Proietti Orsella. Esattamente, che avrebbe dovuto essere con noi stasera, ma per ragioni di lavoro invece purtroppo non c'è, però la salutiamo e la ringraziamo. Esatto. Esattamente, anche lei. Il mio alter ego anche in scena e anche dietro le quinte. Funzionavate perfettamente, eravate veramente molto brave, molto credibili, molto molto realiste, molto, cioè belle, ci siete piaciute, non è inutile, grazie, continuare io, a girarci. Io devo dire la verità, quello che avete detto prima mi ha molto commosso. Io nel senso della commozione cerebrale, perché aiuto, però dopo che si lavora 2 anni su un qualcosa nel quale si crede fortemente, dopo che comunque io qua, permettetemi di ringraziare anche chi produce questo spettacolo, certo, che ha creduto in questo progetto ad occhi chiusi, cioè il Crogiuolo e Rita Azzeri, sì, sentirsi dire queste cose, devo dire la verità che è bellissimo, sono io che vi devo ringraziare per essere venute, per avermi invitato stasera. Sì, adesso basta con questo momento. Sì, infatti, sì, basta con questo momento, avanti. Basta. Senti, torniamo. Finito, qua posto, ci sono. Torniamo a noi. Senti, Der Puff era il Macina Pepe, il famoso locale di Erika Mann e di Teresa Ghise. E il Macina Pepe è quello, diciamo, il punto di partenza di questo cabaret. Esattamente. Ci puoi raccontare qualcosa sui locali lesbici negli anni prima della seconda guerra, diciamo fra gli anni 20, 30, insomma tu? Sì, la cosa, diciamo, curiosa, io dico curiosa tra virgolette, che è quello poi insomma che è successo in Germania dopo il 18, quindi con l'avvento della Repubblica di Weimar, fu che diciamo le lesbiche riuscirono in un certo senso ad organizzarsi e a rendersi visibili, soprattutto in Germania. Il centro della cultura omosessuale era Berlino, ed è a Berlino che proprio negli anni 20 presero vita tutta una serie di associazioni che gestivano appunto dei club e dei locali dove le donne si potevano incontrare liberamente e che naturalmente si differenziavano, no? Sì. Alcuni erano più elitari, altri diciamo erano più popolari, come appunto raccontiamo proprio all'inizio, dopo che cantiamo questa canzone con Marta, avevamo il Malund Igel, appunto, che era l'elegante Malund Igel nella parte ovest di Berlino, sì, dove si incontrava diciamo la creme della creme del mondo intellettuale, le star del cinema, le cantanti, le attrici, eccetera. Poi Berlino invece bene, un pubblico meno elegante lo incontravi invece al Taverna, che era una pista da ballo. Anche il nome, insomma, la dice lunga, la Taverna proprio la dice lunga. Dove tra l'altro vi dico anche il nome del club, perché stavo riguardando, oggi si riuniva il Damen Club Scorpion, ecco, che prendeva spunto dal titolo di un romanzo omonimo, che era appunto un romanzo che raccontava appunto storie di donne, un romanzo lesbico diciamo dell'epoca, però il più noto, che è quello al quale noi facciamo più riferimento anche diciamo nel gadget, si può dire gadget, anche certo, se è una parola assolutamente che, sì, che noi regaliamo prima dello spettacolo, è il Violetta. Esattamente. Senti, proprio per questo, diciamo, questo aggancio che ci dai, facciamo sentire adesso questa bella canzone che si chiama The Lavender Song, la canzone... The Lavender Song, però non purtroppo nella mia straordinaria traduzione, diciamolo. Purtroppo no, non ce l'abbiamo purtroppo la tua no, straordinaria però traduzione, arriverà, però noi ce la ricordiamo e... di mandarvela in originale nella nostra versione. Ce la potrai mandare prima o poi, intanto mandiamo comunque Ute Lemper, che comunque voglio dire... guarda che se tu ce la mandi, noi poi la utilizzeremo in radio. No, poi la spariamo ogni martedì. Esatto, sarà la seconda sigla, va bene? Però mi dovete fare pure la coreografia. Ma certamente, certo, tanto in radio non ci vedono, che ce ne importa? Questo è quello che dite voi, mi sono già messa d'accordo con Caterina, voi non sapete. Ecco, no? Ho capito, va bene. Già cose. Tu scopri gli altarini così, come facciamo tutto, no? Internos, tutti i sotterfugi, tu pubblicamente per radio. Smettetela. Producete, allora vado. La Lavender Song. What makes them think they have the right to say what God considers vice? What makes them think they have the right to keep us out of paradise? They make our lives hell here on earth, poisoning us with guilt and shame. If we resist, prison awaits, so our love does not speak its name. The crime is when love must hide. From now on we'll love with pride. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They are so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. Lavender nights, our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Round us all up, send us away. That's what you'd really like to do. But we are too strong, proud, unafraid. In fact, we almost pity you. You act from fear, why should that be? What is it that you're frightened of? The way that we dress, the way that we meet, the fact that you cannot destroy our love. We're going to win our rights to lavender days and nights. We're not afraid to be queer and different. If that means hell, well, hell will take the chance. They're all so straight, uptight, upright and rigid. They march in lockstep, we prefer to dance. We see a world of romance and of pleasure. All they can see is sheer banality. It's our greatest treasure, where we can be just who we want to be. Allora, rieccoci nuovamente, diciamo, come si dice nelle radioserie, in studio. Con Francesca Falchi, ricordiamo. Con Francesca Falchi, che è attrice, drammaturga, eccetera, eccetera, eccetera. E siamo pronte a farle un'altra domanda. Pronti, sono pronta. Allora, le domande che ti vorremmo fare sono tantissime, però abbiamo dovuto un po' tagliare altre domande che avremmo voluto farti, perché il tempo, come si dice, è tiranno e quindi non ne abbiamo più molto a disposizione. Allora, intanto ti vogliamo chiedere se puoi parlarci brevemente del tuo Funny Rabbit, That's All Folks. Hai sentito che pronuncia? Hai capito che cosa ti stava chiedendo? Soprattutto soprattutto mi sono esercitata un pomeriggio intero per dire questa cosa. Con scarsissimi risultati, ai noi. era favoloso, era proprio molto americano. Ok. No, anche perché il titolo è americano, perché il That's All Folks è quella, non so se vi ricordate, nei cartoni animati della Warner, quelli che guardavamo, certo, noi quando eravamo bambine. Tu quando eri bambina. Punto, proprio il That's All Folks, no? Uh-huh. Racconta, come avete già anticipato voi, la storia delle conigliette polacche, cioè le studentesse polacche che a Ravensbrück furono sottoposte a tutta una serie di esperimenti, chiamiamoli scientifici tra virgolette, sugli arti inferiori e sui muscoli. Degli esperimenti appunto che servivano per testare i sulfamidici, perché come appunto dice Marta a un certo punto, come li curiamo i soldati al fronte, se non facciamo gli esperimenti su qualcuno per vedere se le medicine hanno effetto? Su qualcuno a caso, chiaramente. Come? Su qualcuno a caso, chiaramente. Su qualcuno a caso, cioè, su queste studentesse polacche, delle quali sono sopravvissute, 75, ne sono sopravvissute 69, 6 sono morte in seguito agli esperimenti, racconto appunto anche lì la loro storia, autocitandomi, perché appunto il testo si apre appunto con un pezzo del Der Puff che parla delle conigliette polacche, poi sviluppando la loro storia, anche questa in maniera ironica, non pesante, perché trovo che comunque la cifra ironica e leggera, tra virgolette, sia più devastante rispetto ad una cosa fortemente drammatico. Comunque, certo, che il bilanciamento tra il drammatico e l'ironico nel raccontare queste cose poi arriva, secondo me, proprio colpisce duro e colpisce a fondo. Anche qui sarebbero milioni di storie da raccontarvi, ve ne racconto una, tratta appunto dal libro di Wanda Poltavskaja che ho citato prima, che ha raccontato in una sua straordinaria biografia che si chiama Ho paura dei miei sogni, sì, com'è che queste conigliette sono riuscite a scappare. Racconta della solidarietà di tutte le altre prigioniere quando appunto i tedeschi cercavano di eliminarle una per una per nascondere appunto questi esperimenti. Raccontano che a un certo punto si trovarono in mezzo alle russe, le quali le travestirono da russe e praticamente le mescolarono tra di loro e non riuscirono a trovarle. E questo era uno dei tanti episodi. Pure loro addirittura si mascheravano, andavano in giro impunite, tra virgolette, per il campo, con la Poltavskaja che dice quanto erano stupidi questi tedeschi che ci cercavano come dei pazzi e non ci trovavano. Non ci trovavano. Bastava che guardassero le gambe. Certo. Certo, purtroppo l'imbecillità è spesso accompagnata da questi problemi di. Però diciamo che questa imbecillità ha permesso, insomma, una grande tragedia. Studentesse giovanissime di medicina, peraltro, sì, certo, di salvarsi. Terrificante. E di raccontarci questa storia terrificante. Che peggiore rispetto a quella delle altre, che già di per sé è terrificante. Certo. Senti, un'altra domanda che ti porrà adesso Rosina. Momo, come si dice. Vai, sì. Rosy. Senti, siamo rimaste molto incuriosite da un tuo lavoro su Matilde di Canossa, si chiama Il Canossarium, che tu hai definito la mia follia femminista anticlericale. Allora, siccome noi siamo femministe folli e sicuramente anticlericali, vorremmo sapere, guarda, proprio due battute, perché siamo in dirittura d'arrivo. Abbiamo già sforato, purtroppo. E purtroppo la mia e la tua parlantina, esattamente, noi, esattamente, ce la dobbiamo purtroppo dimenticare in questo momento. Due battute. La figura di Matilde di Canossa, che è una figura storica realmente esistita, sì, mi ha permesso di fare appunto un lavoro sulla, come tu, estremamente femminista e diciamo anche anticlericale, perché Matilde di Canossa, la contessa guerriera, che fu, diciamo, l'ago della bilancia tra il papato e l'impero durante appunto i primi dell'anno 1000, ha dentro di sé questa dicotomia tra materiale e spirituale, tra voler dimostrare la propria forza, il proprio potere sulla terra e questo desiderio di dimostrare anche la propria forza spirituale. Diventa uno strumento fisico e anche politico della Chiesa più che del papato, che facendo leva appunto sulla sua profonda spiritualità la usa per conquistare non tanto il potere spirituale quanto quello temporale. La Matilde di Canossa guerriera e Matilde di Canossa edificatrice di chiese e di biblioteche, quindi un contrasto molto forte, molto violento, che ha portato appunto ad una duplicità del personaggio, che appunto è protagonista del Canossarium, da Canossa più Ossarium, Canossarium. Straordinario, devo dire che Lucilla è rimasta basita. Sì, sì, sono qui assolutamente basita. Allora, Francesca, come ti abbiamo detto, ti ringraziamo tantissimo. Assolutamente sì. Grazie a voi. Per quello che, per le emozioni che ci hai regalato, che ci hai saputo suscitare, e speriamo di rincontrarci molto presto, molto molto presto. Sicuramente con la coreografia, che però adesso diventerà virale. Esattamente. Su YouTube, ma noi fa da voi. Esatto. Noi però speriamo di rincontrarti perché tu possa venire ancora a Roma a presentare dei tuoi lavori, e speriamo di poterti quindi incontrare presto. Senza dubbio. Francesca, grazie, allora, a tutte voi un abbraccio. Grazie, un abbraccio, un abbraccio e a presto. Ciao, grazie ancora. Anche a Marta. Ciao. Sì, ciao. Salutaci, ciao. Marta. Ciao. Grazie, ciao. Un abbraccio. Bene, a questo punto mandiamo la sigla. Oh, no? Sì, prima della sigla volevamo ricordarvi l'appuntamento con il Kesbilè di venerdì prossimo. Di questo venerdì avremo questa volta faremo vedere un documentario che si chiama Lesbiana, di una regista francese. Mi dispiace, in questo momento mi sfugge il nome perché non trovo l'appunto. Non trovo niente, va bene, è un motivo in più per venire venerdì. Esattamente, a comunque lo potete verificare sul nostro sito clrbp.it. E quindi vi aspettiamo a partire dalle 21 al Buon Pastore. A seguire, dopo il documentario, ci sarà un piccolo corto dell'El World. Venite copiosi e copione a partecipare con venite, noi venite a vedere i film e a bere una cosa insieme lì in uno spazio che ci dedichiamo questo venerdì. Perfetto. 18 solo per donne. Perfetto. Donne lesbiche e anche non. Gatte portate. Le misce si possono portare, sì. Ancora grazie a Francesca Falchi per essere stata con noi, grazie a Caterina che ci ha curato la parte tecnica, grazie a Lucilla che mi ha dato fastidio e grazie a Rosina che è stata The Voice. Okay. State buona. Ciao. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.